Però è un po' incredibile che lei a 2 giorni dal voto non abbia ancora deciso chi votare. Il problema è questo, vede, molto spesso nei due filoni principali, quelli che hanno votato Renzi e Bersani, ci sono persone che in particolare misura hanno votato l'uno o l'altro come argine, no? Sì. Sostanzialmente quasi un voto contro in alcuni casi, no? Non un voto magari convintamente a favore dell'uno o dell'altro, ma un voto contro. I voti che mi sono stati dati, pochi o tanti che siano, sono tutti voti convintamente su un progetto politico, che le dicevo prima, non è stato ancora accennato dai due, veramente non è stato accennato, neanche ieri sera, non si è colta neanche per esempio il tema del lavoro, no? Piuttosto che altri, per riuscire ad esprimere un'idea particolarmente incisiva su questo tema. E questo anche sui diritti civili, ieri sera siamo andati piuttosto male. Però non ne hanno parlato, ma ci sono i programmi, cioè lei li conosce personalmente, saprà chi su questi temi, sulla quale lei si è spesa molto, è più vicina a lei, lo saprà. Come le sto dicendo, entrambi sono piuttosto vaghi. Purtroppo sì, purtroppo dobbiamo dirlo, perché se no, vede, non sarebbero state utili altre candidature come la mia. Questo sì. Su questo tema dei costi della politica, lei da che parte sta di più? Cioè ci vuole un finanziamento, come dice Bersani, perché sennò solo i ricchi fanno politica, o è come Renzi? Dall'altro della campagna elettorale qui stiamo veramente avendo, e questa è una cosa che mi irrita profondamente, no? Perché parliamo dei costi della politica dicendo che la politica deve diventare assolutamente, come dire, equilibrarsi rispetto al paese, mettere in campo una sobrietà, una umiltà e anche una capacità di riduzione di spesa, perché insomma i costi pubblici devono essere ridotti al minimo indispensabile, perché fanno parte poi di quell'onere che abbiamo tutti con le tasse. E dopo scopriamo che come dire, invece coloro che appunto nel caso di Renzi hanno speso moltissimo per questa campagna elettorale sono quelli che puntano di più sul fatto che i costi della politica non possano... In questo vede una contraddizione. Cioè, Renzi... No, io questa cosa non la vedo come contraddittoria, ma proprio mi irrita. Irrita? Cioè secondo lei Renzi ha speso troppo? Vedo una contraddizione evidente. Vede, io accetterei, no, di pensare che si possa davvero tornare all'umiltà, alla franceschinità, eccetera, eccetera, se si è combattuto quella guerra, cioè se si è stati capaci di questo esempio, no? Insomma, lo posso tradurre io, lei vota Bersani. Adesso le dico, in politica estera è stato per la parte riguardante gli F-35 obiettivamente insomma le cose più giuste le aveva dette Renzi, quindi su quello se andiamo è Bersani che ha detto a Obama direi degli F-35 ma la replica di Renzi è quella di dire svegliati perché gli F-35 competono a noi, decidete di non comprarli, non li comprate, cioè, che mi sembra molto più acuto dal punto di vista diciamo politico, però appunto non è che si fanno solo degli slogan, no, si sta cercando di capire chi è più capace di governare questo paese.